mago dello specchio magico, sorgi dallo spazio profondo. Tra vento e oscurità io ti chiamo. Parla. Mostrami il tuo volto. Che vuoi conoscere, mia regina? Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. È un narcisismo soprattutto mentale, ma ha creato dei problemi perché il mondo se ne accorge che tu sei completamente ripiegato su te stesso e che non ti accorgi delle altre persone e te la fa pagare. Giorni dopo la rincontrai, ma feci finta di non riconoscerla. Da grandissimo narciso quale ero e sono, ero mortalmente offeso per il fatto di essere stato rifiutato. Storie di incontri amorosi definitivi e di false identità in una puntata tutta dedicata al narcisismo. Alla fine, la regina cattiva di Biancaneve, quella che abbiamo sentito in apertura di puntata, adesso non ricordo bene il suo nome, quando chiede allo specchio chi è la più bella del reame, quello fa un atto di enorme narcisismo. In questa puntata di Linee d'ombra vi raccontiamo delle storie che, anche se sono molto diverse, come amiamo fare, cercano di mettere insieme un unico fattor comune. E il fattor comune di questa puntata e di queste storie è il narcisismo. Noi continuiamo a raccontarvi storie, continuiamo a fare il nostro lavoro sempre con un occhio, un orecchio a quello che succede là fuori, ma convinti che raccontare storie e trovare un modo per distrarre un pochettino la nostra mente, per spostare la nostra attenzione, sia un bel modo per respirare un pochettino. Qualcuno dice che raccontare storie ha a che fare con l'abbassare il battito cardiaco, soprattutto ascoltare le storie. Ecco, noi cerchiamo anche di fare quello, cerchiamo di fare un fiato, fare un bel respiro, abbassare il nostro e il vostro battito cardiaco. Lo facciamo con due storie oggi, come vi dicevo poco fa, dedicate al narcisismo. C'è una storia di narcisismo quasi sadico, è la storia di una donna che si è inventata una biografia di fatto assurda. Ha finto di essere una vittima di uno degli eventi più tragici che sono accaduti in questi ultimi anni, e sto parlando dell'11 settembre del 2001, e tra poco ve la racconteremo. La storia d'apertura invece è una storia che ci arriva da Jacopo, è una storia che entra molto nei dettagli, è una storia che è tragicomica, perché Jacopo, che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, e mi aveva accennato questa storia, gli ho detto mandala assolutamente a Linee d'ombra, cosa che invito chiunque a fare, che invito anche voi a fare in questo momento, lineedombra@radio24.it, per mandarci una vostra storia che abbia a che fare con un confine, con una linea d'ombra, il buio di qua e la luce dall'altra parte. Ecco, a Jacopo ho detto questa storia me la devi assolutamente mandare al programma, e parla di quanto, anche se non siamo magari in grado di ammetterlo, come fa lui in maniera aperta, in maniera molto molto sincera, quanto un pizzico di narcisismo sia parte di ognuno di noi. Tra l'altro, la storia di Narciso, che sappiamo tutti, no? È quest'uomo bellissimo che disdegna chiunque, le donne si innamorano di lui, lui non le insomma, come dire, in termini che non siano carini, non dà retta a nessuna di loro, è un cacciatore che va in giro per i boschi. A un certo punto per gli dei lo puniscono e lo fanno innamorare della sua stessa immagine riflessa in uno specchio d'acqua, e lui è talmente innamorato di sé che affoga in quel lago. Ecco, per capire quanto è antica questo mito, è un mito greco, ma addirittura pare che questo mito risalga a un'epoca ancora più antica. Pare che sia stato trovato nei papiri di Ossirinco, per farvi capire, non faccio anche fatica a pronunciarli, parliamo di qualcosa che sta tra il primo e il quarto secolo dopo Cristo. Ecco, facciamo così quindi, mettetevi comodi, cominciamo ad ascoltare tutta questa puntata e tutte queste storie dedicate al narcisismo. Benvenuti a Linee d'ombra. Avevo 24 anni quando ho conosciuto Laura a Perugia. Oggi ne ho 42. Era la primavera del 2002. Sono passati quasi 18 anni, ma questi quasi 18 anni io e lei non li abbiamo passati tutti insieme. Tra l'aprile del 2002, data del nostro primo incontro, e l'8 febbraio 2006, data in cui ci siamo, o meglio ci saremmo messi insieme, sono passati quasi 4 anni. 4 anni in cui io e Laura non solo non siamo stati insieme, ma non ci siamo mai nemmeno frequentati da amici o da conoscenti. Perché? Perché Laura rimase scioccata dal nostro primo incontro nel 2002. L'avevo vista seduta sul muretto fuori dall'aula bunker di Perugia, un'aula che per un'intera generazione di studenti, quella mia e di Laura, è stata leggendaria. Aula semi-interrata, luogo di studio matto e disperatissimo, dove quasi non entrava la luce del sole, eccezion fatta per quello spiraglietto che filtrava dal lucernario fessura in alto sulla parete dell'ingresso. Del resto, la parola bunker parla chiaro. Non essendoci nell'aula bunker finestre né arredi di sorta tranne banchi e sedie, ti scordavi del mondo fuori, ma anche di quello dentro, e pensavi solo a studiare in un'atmosfera ascetica, di abnegazione assoluta. Però era anche un luogo che si affacciava sugli splendidi giardini del rettorato e che quindi permetteva, durante le pause dallo studio leopardiano, di godersi una bella aria aperta e socializzare. Molti amori sono nati davanti all'aula bunker. Io e Laura non siamo particolarmente originali in questo, va detto. Insomma, io sto lì a fumarmi una sigaretta rollata a mano quando vedo questa ragazza seduta sul muretto che sembra in tutto e per tutto una bambolina di porcellana giapponese, coi suoi capelli a caschetto neri come la notte, la sua pelle bianchissima, due splendidi occhi color nocciola e una grossa e bella boccona, dalle labbra carnose, già molto rosse di loro e rese ancora più rosse da un rossissimo rossetto. Guardava il mondo con aria trasognata e col senno di poi, se io fossi stato una persona un po' più normale, le avrei detto, per rompere il ghiaccio, che aria trasognata che hai e non che faccia da rincoglionita che hai, come effettivamente di lì a poco avrei fatto. Sono proprio solito ancora oggi essere un poco diplomatico, sono una persona fin troppo diretta, suppongo che c'entri qualcosa la mia famiglia, nel senso credo che di averla assorbita questa predisposizione con il latte materno, nel senso che anche mia madre è una persona parecchio diretta, al limite dello sfacciato. Pure mio padre in fondo a modo suo lo è, insomma, è uno che non, anche lui è uno che a modo suo non le manda tanto a dire, come dire in maniera colloquiale. Dopo questo inizio col botto, il resto della giornata assieme non poteva che proseguire su questa falsa riga. Andammo insieme a pranzo in mensa, dove lei, mi disse alcuni anni dopo, non riusciva a concentrarsi su quello che dicevo, perché era troppo disgustata dal mio modo di mangiare. Io mangio come un animale, questo va detto, ciancicando rumorosamente a bocca aperta e mostrando il mio bolo alimentare agli sfortunati commensali. Tipo John Belushi in Animal House. Lo so, non riesco a farci niente. Io, dal canto mio, pensavo che lei fosse troppo timida. In realtà non proferiva parola perché era schifata. Ma questo lo scoprì appunto solo anni dopo. Dopo pranzo ci spostammo insieme al Tempio Paleocristiano di Perugia, che i perugini chiamano confidenzialmente il Tempietto. Lì davanti c'è un parco sulla cui erba ci sdraiammo e dove io misi la mia testa sulle sue cosce, mossa che lei sicuramente trovò troppo audace, anche se forse audace non lo era poi così tanto. La sera andammo a cena in una pizzeria che oggi non esiste più, come non esiste più buona parte delle cose che c'erano a Perugia quando io e Laura eravamo giovani. La pizzeria Etruschetto. Finito di mangiare, lei mi disse qualcosa tipo «Non c'è bisogno che mi offri la cena, eh?» E pare che io le abbia risposto «Ah, tranquilla, non ci pensavo proprio». Sempre meglio, insomma. Dopo cena facciamo 4 passi attorno alla pizzeria nelle traverse di Corso Garibaldi. In una di queste, lei all'epoca abitava e proprio sotto casa sua, io, davvero gentleman, pensai probabilmente che la cosa era andata fin troppo per le lunghe e che era ora di sbatterla al muro e saltarle addosso. E così feci. La misi spalle al muro e provai a baciarla 1, 2, 3 volte. Chissà che un approccio simile nei tempi post-Me Too che stiamo vivendo non sarebbe considerato una molestia sessuale. Comunque è così che sono andate le cose e lei, 1, 2, 3 volte, si è sottratta al mio tentato bacio, finché io non mi stancai e la salutai. Dopo questo primo appuntamento turbolento, lei mi disse anni dopo, quando oramai stavamo insieme, di aver scritto su una pagina del suo diario di quella sera «Oggi ho conosciuto un pazzo». Non lo sapeva ancora lei che ero effettivamente clinicamente pazzo, ma ci aveva visto giusto. La prima impressione è quella che conta, si dice. E in questo caso era anche quella giusta. Giorni dopo la rincontrai per strada, lei mi salutò e io feci finta di non riconoscerla e tirai dritto senza salutarla. Da grandissimo egocentrico e narciso quale ero e sono, ero mortalmente offeso per il fatto di essere stato rifiutato. Iniziò così il periodo di 4 anni che io e Laura avremmo passato senza vederci. I'm not the only traveler. Pochi mesi dopo lasciai Perugia e tornai a casa, a Roma, a circa 5 esami dalla laurea. Passarono quei famosi 4 anni, anni in cui io avevo finito, a distanza e da non frequentante, di dare gli ultimi esami. Nel 2006, anno della sera di febbraio che mi ha cambiato la vita, stavo per iniziare un master organizzato dalla Sapienza e Radio Rai. A guardarmi da fuori sarei potuto anche sembrare un giovane mediamente di belle speranze, anziché il disadattato che ero e sono. Quella sera del, forse, 6 febbraio 2006, ero solo nella casa di Casal Palocco, che era stata quando ero piccino, mia e dei miei genitori, e nella quale all'epoca ero tornato a vivere da solo. Ero da solo, appunto. Se ci fosse stato qualcuno lì con me, non avrebbe esitato a definirmi, nella migliore delle ipotesi, un disadattato, come ho fatto io parlando di me stesso poco fa. Orfano dell'humus che ero riuscito a crearmi a Perugia e che mi aveva permesso, in quei 4 anni che avevo passato lì, di trovare qualcosa che somigliasse vagamente a un mio posto nel mondo, stavo invece seduto al mio tavolo da lavoro che, chissà perché, avevo sistemato nell'angolo più buio della casa. Il portatile aperto su un forum al quale mi ero iscritto, inizialmente per rimorchiare, ma che non aveva tardato a diventare la piazza virtuale del mio delirante narcisismo. All'epoca era al suo top. Parlavo in quel forum di tutto e di più, quasi a sentirmi un Cruciani dei poveri e prendendo per il culo a morte chiunque provasse a intralciare il racconto, falso quanto folle, che facevo di me stesso e del mondo. Accanto al computer c'erano una bottiglia di vino quasi finita, capsule di Prozac, alcune sane, altre aperte, sparse sul tavolo, sporcizia e disordine ovunque. Mutande, calzini buttati qua e là, pentole piatti con resti di sugo e usate a mo' di posacenere pieni di cicche di Marlboro morbide per terra, un autentico scenario da neurodeliri. Stavo giusto chiedendomi che senso avesse continuare a vivere in quelle condizioni quando, nel buio del mio salotto, risuonò il segnale acustico di un SMS. Presi il telefono, aprì il messaggio, che diceva più o meno così. «Ciao, è tanto tempo che ho questo numero in rubrica e non so di chi sia. Chi sei?» Un modo in cui mi sentivo prima era veramente a terra, ero proprio ai minimi termini, uno dei punti più bassi che la mia vita abbia mai toccato, il modo in cui stavo prima, insomma, perché ero parecchio depresso, le mie giornate passavano l'una dopo l'altra in maniera piuttosto vuota e inutile. Quando ho ricevuto l'SMS di Laura, dopo averci parlato un po', dopo aver capito, dopo essermi ricordato di chi era, di chi eravamo, insomma, ecco, l'ho vista come una grande occasione, forse l'ultima di essere felice. Era lei che si era dimenticata di me. Cioè, io ancora non sapevo che fosse lei, perché anche io mi ero dimenticato di lei, e poi non ce l'avevo più nemmeno salvata in rubrica, nemmeno con un nome che ormai non mi suonasse familiare. Iniziamo a scriverci, via via sempre più fitto. Ci ricordammo chi eravamo, ci ricordammo di noi. Ma io non facevo più lo strafottente come in occasione di quel nostro primo incontro. Sentivo di non potermi più permettere quella maschera. Sentii, da subito, la necessità di aprirmi con Laura, con quella timida ragazzetta di montagna. Probabilmente sentivo che era stato un errore 4 anni prima trattarla come l'avevo trattata. Non sapevo perché, ma mi sentivo in cuor mio che quella era veramente l'ultima possibilità per me di essere felice e di raggiungere un minimo di serenità. Continuammo a chattare per tutta la notte. Parlammo veramente di tutto: della vita, dell'amore, delle prospettive lavorative, dei tempi da studenti che stavano per finire, del futuro, della nostra disgraziata generazione. Il giorno dopo mi svegliai tardi, verso l'una. Suppongo che anche lei si fosse svegliata da poco. Si manifestò di nuovo nella mia vita mandandomi un SMS con le parole della canzone Country Road, con tante O, tante A e tante E, tutte maiuscole, come a sottolineare che mentre mi scriveva la stava cantando a squarciagola, che era felice quindi, felice di aver ritrovato me. Mi piaceva pensare così, insomma. Il giorno dopo, ancora, presi la macchina e andai da lei, a Perugia. Era il fatidico e presunto 8 di febbraio. Arrivai a sera tardi, come era mio costume, e lei si spaventò perché avevo uno zaino da campeggio pieno zeppo di roba e un'enorme valigia. Temeva che la mia intenzione fosse quella di stabilirmi da lei, invece di limitarmi a vedere come andava la prima notte insieme. Rimase anche orripilata dal fatto che mi fossi sbarbato di fresco, pensando di fare una cosa a lei gradita. Lei, infatti, mi aveva conosciuto 4 anni prima con una barba corta e rada e non immaginava certo che senza barba potessi stare così male come in effetti sto quando mi sbarbo. Quella sera del forse 6 febbraio 2006, con quel messaggino, Laura mi ha salvato dal mio narcisismo e dal mio egocentrismo. Intendiamoci, non del tutto. Nessuno si salva mai del tutto. Sono ancora un disadattato, uno sdatto, come si dice a Perugia. Ma lo sono molto meno di quanto non lo fossi prima di mettermi con lei e di quanto non sarei diventato se fossi rimasto da solo o se mi fossi messo con un'altra. Era lei, quella giusta per me. Da allora viviamo felici e contenti. Lei il 7 dicembre del 2015, 4 giorni prima del mio compleanno, mi ha fatto il più bello dei regali, mio figlio Miro, un bambino che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Ma il punto comunque è che, come dice Joseph Campbell, felici e contenti è solo l'inizio. La parte più bella della storia, io, Laura e Miro, non l'abbiamo ancora scritta. Hey Laura, it's me. Sorry but I had to ring your doorbell so late. There's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. È una puntata questa di Linee d'Ombra in cui il narcisismo è grande protagonista e lo è grazie alla storia che ci ha mandato Jacopo. Come vi dicevo in apertura, io Jacopo lo conosco e quando mi ha raccontato per la prima volta questa storia io gli ho detto devi assolutamente mandarla al programma e lui così ha fatto. Pronto, ciao Jacopo, buongiorno. Ciao Matteo, come va? Benone, tu come stai? Tutto a posto. Senti Jacopo, mi dici per quale motivo tu stesso ti dai più di una volta del disadattato o dello sdatto? Cioè, se hai questa consapevolezza, in base a cosa lo dici e perché non cerchi di, come dire, di non esserlo più? Allora, prima cosa è perché, vabbè, sono uno che si trova spesso a disagio nelle varie situazioni della vita e sono sempre un pochino fuori asse rispetto a quello che ci si aspetta che si faccia o che si dica e che poi io non cerchi di migliorare, di cambiare, questo non è vero, lo faccio tutti i giorni, okay. Però è una battaglia molto dura. Ah, ok, quindi tu dici parto da lì ma ogni giorno cerco di risollevarmi. E invece, scusami, un'altra cosa che non ti ho chiesto la prima volta che mi hai raccontato questa storia è lei, Laura, aveva scritto questa sera ho conosciuto un pazzo, tu dici, te l'ha raccontato anni dopo ovviamente, e tu scrivi lei non lo sapeva ma in realtà è vero. Per quale motivo dici così? Perché vabbè, ho una diagnosi, non voglio parlare di quale, ma comunque come molta gente oggi, perché oggi c'è una medicalizzazione molto ampia per quello che riguarda l'ambito psicologico / psichiatrico, insomma. Certo, in realtà questo abbiamo scoperto che vale per tutto, appunto come per il virus, no? Cerchi un virus, trovi un virus, quindi più cerchi più trovi, quindi probabilmente sì, se tutti quanti facessimo un test per capire la nostra sanità mentale, qualsiasi cosa significhi sanità mentale, probabilmente avremmo in qualche modo una piccola grande diagnosi. Senti, come sta Laura? Laura sta bene. In questo momento è al lavoro, anch'io sono al lavoro. E quando le hai gliel'hai raccontata questa storia? Gliel'hai letta? Gliel'hai prima di mandarla a noi? Ma sì, certo, ovvio, sono la prima persona a cui l'ho mandata. Lei cosa ha detto? e ha detto che era bellissima. E mi sono fidato di questo giudizio, perché di solito lei è molto critica col mio lavoro, e invece, cioè, perché per me scrivere è un lavoro, sempre ammesso che si possa parlare di lavoro, perché non mi ricordo chi era che diceva che in realtà più che un lavoro è una professione di infelicità, no? Tu, Jacopo, tu lavori con la scrittura, giusto? Ricordami cosa fai esattamente. Sì, io sono uno scrittore e un agente letterario, e nel senso che nasco come scrittore e a un certo punto, siccome nel 98 feci un inizio col botto, col premio Campiello Giovani, e fui pubblicato da Marsilio, però poi per molti anni sono rimasto silente, non so neanche io perché ancora. E quando sono tornato non è che potevo aspettare che tutta il mondo dell'editoria stesse ad aspettare me, insomma. E quindi hai deciso, quindi insomma, mi sono rivolto alla piccola media editoria, che ho scoperto delegare molto allo scrittore in termini di auto-organizzazione, di autopromozione. Chiarissimo. Quindi ho imparato diversi altri mestieri e li metti in pratica. Ho deciso di mettere al servizio di altri. Chiarissimo. Senti, Miro come sta? E Miro sta bene, per fortuna sta bene. Lui è del 2015, quindi ha 5 anni adesso. No, lui è del dicembre 2015, quindi ancora ce n'è 4 e qualcosa. Quindi cosa fa? Asilo? 4 e 3 mesi. Fa l'asilo? Purtroppo 4 e 3 mesi. Fa l'asilo, giusto, Jacopo? Fa l'asilo, sì. Gli hai raccontato la storia? No. Ho fatto di meglio, gli ho fatto vedere, tu hai già dichiarato che ci conosciamo, io a questo punto dichiaro che questa storia l'ho presentata anche sul palco di Don't Tell My Mom. A questo punto, quindi gli hai fatto vedere il video, gli hai fatto vedere il video di quella serata. Gli ho fatto vedere il video della serata e lui è piaciuto moltissimo, mi ha chiesto di vederlo e rivederlo più e più volte. E a un certo punto ha fatto anche una cosa bellissima per me, che però purtroppo io non mi sono dimostrato all'altezza della cosa, nel senso che aveva fatto un bellissimo disegno di me che stavo sul palco di Don Tell My Mom con il microfono in mano. E io avevo detto, questo qua lo devo conservare, questo disegno. Poi invece, preso dalle attività quotidiane, mi sono dimenticato di strapparlo dal blocchetto. Non riesco più a ritrovarlo, mi dispiace tantissimo. Vabbè, ma secondo me lo ritroverai prima o poi. Jacopo, io ti ringrazio davvero tanto per la storia e per la chiacchierata, e insomma, spero di rivederti presto, in bocca al lupo per tutto. Crepi, ciao Jacopo, ciao, grazie. Ciao. Ora, e speriamo bene anche con questo coronavirus. Speriamo bene. Sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. Insomma, lo avete capito, è dedicata al narcisismo la puntata di oggi, e Jacopo ci ha anche fatto capire per quale motivo in tutta la sua narrazione, che è fatta non solo della storia che ci ha raccontato. Questa è una cosa a cui io tengo veramente moltissimo, soprattutto quando mi chiedono: c'è un modo per raccontare una storia? Io credo ce ne siano milioni, tanto quanto siamo su questo pianeta, cioè ognuno ha il suo modo di raccontare la storia, e la propria storia non è mai solo il contenuto della storia, ma è il modo in cui lo raccontiamo, le parole che usiamo, ovviamente, che fanno sì parte del contenuto, ma la nostra voce, anche il fatto di essere più o meno impacciati, dicono moltissimo, non tanto di quella storia lì, ma dicono sicuramente moltissimo, moltissimo di noi. Insomma, Jacopo ci ha raccontato perché lui si autodefiniva un narcisista, e ora andiamo, come sempre facciamo, da un'altra parte, raccontiamo un'altra storia che però tratta di questo, tratta di narcisismo, perché è davvero difficile, è piuttosto inspiegabile questa storia, è davvero difficile capire che cosa spinga una persona a fingersi chi non è, soprattutto quando questo vuol dire apparire sofferente, vuol dire apparire spezzato dalla vita, con un lutto enorme sulle spalle, che sono aspetti che si sono rivelati tutti, in questo caso, tutti inventati, e che fanno pensare ad una strana, veramente morbosa e macabra forma di narcisismo. Vi raccontiamo la storia di Tanya Head, una finta vittima dell'11 di settembre. State con noi. Alle 8.46 dell'11 settembre 2001, Tanya Head si trovava al 96esimo piano della Torre Sud del World Trade Center di New York, negli uffici di Merrill Lynch, dove era impiegata. Da lì vide il primo aereo arrivare. Dave, suo promesso sposo, consulente Deloitte & Touche, lavorava nella Torre Nord, e lei, alla vista delle fiamme, si precipitò giù per le scale fino al 78esimo piano. La corsa fu sufficiente a salvare la vita. Il secondo aereo, diretto al palazzo in cui si trovava, stava per arrivare, se la cavò solo con un braccio ustionato. Tania ha 28 anni, è una donna di origine spagnola che sopravvive all'atto di terrorismo che diventa il simbolo del terrorismo nel mondo, l'attacco alle Torri Gemelle. È una persona molto attiva, inizia a prendere parte ai gruppi di sopravvissuti che lottano insieme per riuscire ad andare oltre a quell'incredibile trauma. I superstiti dell'11 settembre principalmente si sentono in colpa, sono ancora vivi e questo, dal loro punto di vista, è insostenibilmente ingiusto. Tania poi aveva perso David, suo marito, che aveva sposato da poco in una di quelle cerimonie da film sulla spiaggia di Maui, alle Hawaii. Tania aveva dovuto lottare contro le scartoffie della complicata vita di tutti i giorni perché quel matrimonio, mesi dopo l'attentato, venisse perlomeno registrato. «È stato il mio modo di diventare vedova», racconta. «Aspettare che un giudice mi desse in sposa al mio Dave, che ormai non c'era più». Tania, grazie alla sua vitalità, diventa una leader nel gruppo dei sopravvissuti e a nome di tutti partecipa alle cerimonie, prende la parola quando bisogna ricordare o raccontare. La vediamo fotografata più di una volta accanto al sindaco di allora, Rudolph Giuliani, davanti a Ground Zero, nei giorni di commemorazione di quella tragedia. Poi però un giorno accade qualcosa di stravolgente per lei e forse per la coscienza collettiva degli Stati Uniti d'America. Il 27 settembre del 2007, a 6 anni di distanza dall'11 di settembre, il New York Times esce con un articolo che smaschera Tania Head. La sua storia è una montatura, o più semplicemente, è una storia falsa. I jumped out the window to get to the parking lot. I'm writing this little song. Non è vero niente. Non è sposata, non lavorava per Mary Lynch, ma soprattutto quel giorno lei non era lì. Non era a New York, non era al 96esimo piano della Torre Sud del World Trade Center. Si trovava a Barcellona, dove stava seguendo un corso in Business Administration. Ah sì, dimenticavo. Tania Head non è americana, è spagnola, e non si chiama nemmeno Tania Head, ma Alicia Esteves. L'unico dettaglio vero è la ferita che lei porta come una firma sulla sua pelle. Un ustione ad un braccio che però non era stata causata dalle fiamme divampate nella Torre Sud, ma da un precedente incidente. La verità viene fuori grazie a David Dunlap, giornalista del New York Times, che un giorno decide di scrivere un articolo su di lei e le rivolge qualche semplice domanda. Domande banali come chi era il pompiere che l'aveva soccorsa, in quale ospedale era stata ricoverata. Domande alle quali Tania Head non era stata in grado di rispondere. Le investigazioni sulla falsa vittima dell'11 settembre negli anni si sono moltiplicate e sono poi state raccolte in un libro che si intitola The Woman Who Wasn't There, la donna che non era lì. Diventato anche un documentario. Oggi quella donna è tornata a vivere in Spagna. Non sappiamo che cosa faccia, ma soprattutto non sappiamo perché abbia fatto ciò che ha fatto. This morning, I could barely breathe. Just an empty impression in the bed where you used to be. I want a kiss from your lips. I want an eye for an eye. I woke up. To an empty sky. Empty sky. Empty sky. I woke up this morning to an empty sky. La storia che vi abbiamo raccontato, la storia di Tania Head, la trovate, insomma, se fate una ricerca col suo nome online trovate sicuramente in giro qualcosa, trovate il documentario su di lei. Noi però questa storia l'abbiamo letta sul New York Times. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linea d'Ombra. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Come sempre facciamo, approfittiamo della storia che vi abbiamo raccontato in apertura, in questo caso la storia di Jacopo, ma anche la seconda storia, quella di Tania Head, per cercare di approfondire un pochettino di più il tema e se è un disturbo o se è un vizio, il disturbo o il vizio che vi stiamo raccontando, in questo caso il narcisismo. E per farlo quest'oggi abbiamo al telefono uno psicologo, Enrico Maria Secci, autore di un libro che è diventato un long seller, un'autopubblicazione che continua ad avere un grandissimo successo, che si intitola I narcisisti perversi e le unioni impossibili. Dottor Secci, buongiorno. Buongiorno. Grazie mille per essere qui con noi. Nel suo testo lei parte chiaramente, per parlare di narcisismo, dal mito di Narciso. Chi era quest'uomo e perché, nonostante fosse così antica la sua storia, ancora oggi è parte di ognuno di noi? Narciso nella storia è descritto come un giovanissimo cacciatore, con una caratteristica particolare, la sua bellezza e la sua irresistibilità. La storia del mito parla appunto di una persona vittima di se stessa. Nel momento in cui Narciso incontra il proprio sguardo, si innamora di se stesso in modo assolutamente incontrollabile e finisce per morire. Narciso muore di consunzione. Il mito ci parla della difficoltà sostanzialmente dell'amore, dell'amare qualcuno di diverso da se stessi e anche della impossibilità di amare se stessi da soli. Senta, perché però lei dice che il narcisismo può anche essere sano? Il narcisismo può essere sano perché è descritto da tutti i ricercatori, persino Freud ne parla in questi termini, è descritto come un nucleo primario, no? Che quindi anche i bambini nascono con un narcisismo sano primario che è propulsivo per l'adattamento della persona alla vita, e quindi di per sé il narcisismo inteso come una buona autostima, un'attenzione ai propri bisogni affettivi e non solo affettivi è qualcosa di estremamente adattivo. Nel corso dello sviluppo può accadere qualcosa di traumatico che rende il narcisismo come un tratto portante della personalità, e a quel punto si può parlare di narcisismo patologico, che esiste in diverse qualità, in diverse quantità, fino a diventare un autentico disturbo della personalità. Però di per sé il narcisismo non è né un vizio né un disturbo, ma può essere identificato come un nucleo della personalità, in quanto tale lo abbiamo tutti. Perché ha a che fare con l'autostima, insomma, preso in piccole dosi, come si potrebbe dire, ha a che fare con un minimo di autostima, giusto? Sì, sì, infatti si può parlare anche di un disturbo opposto al narcisismo, che viene definito in letteratura come la sindrome di Eco, che è proprio l'assenza di narcisismo, la mancanza di narcisismo. Chi ha poco narcisismo tendenzialmente sta male e appunto sviluppa altre patologie che apparentemente nulla hanno a che vedere col narcisismo. Il narcisismo è inducibile, cioè si può indurre il narcisismo, cioè una persona che non ne ha nemmeno un briciolo può essere portata ad accrescere la propria autostima? In senso fisiologico certamente si può aiutare la persona a sviluppare la propria autostima e quindi a prendere delle gocce omeopatiche di narcisismo, che fa molto bene, no? Dire farlo, io lo suggerisco a molte mie pazienti che hanno proprio questo problema e infatti sono dipendenti affettive da narcisisti per giunta, quindi un po' di narcisismo si può certamente guadagnare. È possibile invece ammalarsi di narcisismo, secondo me, anche in età adulta, quando si subisce un abuso narcisistico, cioè quando si hanno delle relazioni con soggetti con tratti preponderanti o patologie di natura narcisistica, che possono proprio indurre nella vittima dei tratti tratti appunto disfunzionali di tipo narcisistico. Quindi una persona che non era né manipolatrice né narcisista, sottoposta a una relazione traumatica, può sviluppare quello che io chiamo narcisismo reattivo, che è transitorio ma che comunque può disturbare notevolmente il vissuto della vittima. Dottor Secci, è stato veramente molto molto chiaro, ma se volete saperne di più leggetevi I narcisisti perversi e le unioni impossibili, proprio autore Enrico Maria Secci. Grazie mille dottore, in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie. A presto, buona giornata. The time is never right, it's only ever clear at night. Her teeth looked like plastic when I peeked. There's tumors right behind their eyes. Their poison tongue tell only lies. There's blood on the hands that feed an eye. Swear I saw a tattoo on. Una sorta di thriller, la storia seriale che continuiamo a raccontarvi da questa settimana, anzi dalla scorsa settimana. Le storie seriali che noi vi raccontiamo ogni giorno sono raccolte anche in un unico pacchetto in podcast, se avete voglia di risentirvele tutte, oppure potete ascoltarvele il sabato alle 21.30, ci sono le 5 storie da lunedì al venerdì che vi raccontiamo all'interno appunto di Linee d'Ombra. Le raccoglie Mauro Pescio per noi, le va a cercare, le scova e ce le racconta. E Mauro ha davvero scovato questa storia grazie ai genitori della protagonista della storia che ci sta raccontando. Loro sono una coppia di Roma che è andata a vivere prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, in Florida, un giorno loro figlia, che era un adolescente, si è trovata sotto attacco, come ahimè si trovano molti ragazzi americani che sono semplicemente a scuola, fanno il loro lavoro di studenti, e a un certo punto un tizio, che per lo più di solito è uno studente, in questo caso un ex studente, entra armato e cerca di fare fuori più persone possibile. Quell'attacco è stato un attacco nel 2018, se ne è parlato moltissimo, era appunto in Florida, e lei ci racconta con la sua viva voce che cosa accade in quel momento, in quei 6-7 minuti durante l'attacco, come si comporta lei e come si comportano gli altri. Ok, so basically after they told us to start leaving, l'attacco è durato circa 6 minuti, ma da quando scatta il codice rosso che inizia la sparatoria, quando raggiungo il Walmart, il supermercato, mi metto in salvo, passa un po' di più. Quando scatta l'allarme, subito per prima cosa chiamo la mia migliore amica. È lei a dirmi che ha sentito degli spari, ma che non sapeva che fossero spari. Dopo che ci troviamo, decidiamo insieme di scappare attraverso il prato e di passare attraverso il campo da calcio dove stavano giocando e raggiungere il prato della scuola media, che sarebbe stato più sicuro del nostro. Anche perché davanti al ponte si era creato un imbuto di almeno 1000 ragazzi in attesa. Invece, dall'altra parte avremmo potuto scavalcare il fosso con un salto. È a quel punto che mando un messaggio a mio papà. Gli dico che sta succedendo qualcosa di strano a scuola, intanto comincio a sentire le sirene della polizia avvicinarsi e anche il rumore di elicotteri. Solo a quel punto realizzo che sta succedendo sul serio qualcosa di terribile nella mia scuola. Davanti a me vedo altri ragazzi più piccoli saltare il recinto attorno al prato e scappare. Salto al recinto anch'io con un amico, ma la mia insegnante mi prende per le braccia, mi dice che è più sicuro se stiamo con lei. Noi continuiamo a chiederle che cosa succede, e lei non sa cosa rispondere. Non so cosa stia accadendo, dice. Non so dove dovremmo andare, ma dovete stare con me. Intanto arriva la sicurezza, i militari, lo SWAT team. È un addetto alla sicurezza della scuola a dirci che c'è un ragazzo armato dentro la scuola che sta sparando. Il mio amico realizza che due suoi fratelli sono dentro la palazzina, dove sembra sia rinchiuso il killer. Cominciamo a piangere. And this is over the span of like 4 minutes it took kind of to e get tutto to questo è successo nei primi 4, massimo 5 minuti. Poi, continuando a piangere, mi sono infilata dentro al Walmart e mi sono seduta a terra. Dall'inizio della sparatoria sono passati al massimo 10 minuti. Inside the Walmart, because it's right there, where he says we're going to go inside the Walmart, we're going to sit down, and then by the time I get to the Walmart, it's been going on for like 7 to 10 minutes. La chiudiamo qui, la chiudiamo così anche questa puntata di Linee d'Ombra. Era una puntata che era tutta dedicata al narcisismo. Ve ne abbiamo raccontate due di queste storie, appunto una che parlava di un ragazzo che viene rifiutato da una ragazza, perlomeno un bacio viene rifiutato, lui se la lega al dito proprio perché non può immaginare che di ricevere un rifiuto come quello. L'altra invece è la storia di una donna che probabilmente per una strana morbosa forma di narcisismo decide di fare finta di essere una vittima dell'11 settembre fino a che non viene smascherata. Riascoltate questa puntata se vi va. Queste che vi lasciamo sono piccole storie, piccole pillole di storie che rilasciamo quotidianamente qui alle 15 su Radio 24, ma le potete ritrovare in podcast come e dove volete, sulla app di Radio 24 o ovunque voi scarichiate i vostri podcast. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo domani per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!